Birgitta. Aveva tenuto d'occhio Lovisa tutta la mattina. Era il primo giorno di scuola dopo la morte del padre, trovato annegato nell'arcipelago. Sebbene soffrisse a vederla così silenziosa e assente, era d'accordo con il preside e il vicepreside che la cosa migliore per la piccola fosse riprendere contatto con la quotidianità il prima possibile. Anche gli altri alunni erano più silenziosi del solito. Capivano e mostravano rispetto. Birgitta era orgogliosa di loro. Erano davvero una bella classe. E un giorno sarebbero diventati tutti dei bravi cittadini consapevoli. Mentre usciva in cortile, vide Lovisa dirigersi verso la macchina insieme alla mamma. Ingrid Sten era vestita di nero. Birgitta non riuscì a trattenersi e la chiamò. Ingrid si voltò, poi disse qualcosa a Lovisa e le andò incontro. «Volevo solo farle le condoglianze», disse lei. «Che tragico incidente!» «Grazie». Birgitta cercò qualcosa da aggiungere. «Lovisa è... ha davvero una figlia brava e coraggiosa. Deve essere orgogliosa di lei». Ingrid annuì, preparandosi a tornare alla macchina. «Sicuramente avrà molti amici che le staranno vicini, ma se avesse bisogno di qualcosa, non esiti a chiamarmi», aggiunse Birgitta. «Grazie», rispose Ingrid prima di andarsene. Birgitta rimase un attimo a guardarle, poi corse a casa. Era stanchissima, ma doveva preparare una bella cena per Jacob e i gemelli. Era l'ultima volta che si vedevano e ci teneva che passassero una bella serata insieme. Avrebbero sospirato e alzato gli occhi al cielo non appena avesse aperto bocca. Con gli anni aveva finito per farci l'abitudine, ma era ancora doloroso. A volte desiderava aver avuto anche una figlia. Le femmine sono più dolci dei maschi. Forse la vita sarebbe stata più facile se ci fosse stato qualcuno che ricambiava il suo amore.